Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchiesi. Parte la seconda puntata di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che ogni giorno indaga sulla società italiana. Dedicata al fenomeno delle liste civiche, la terza puntata della nostra inchiesta sulle elezioni amministrative, quelle che si svolgono il 6 e 7 maggio in Italia. Si tratta di un test importante, di un test politico, perché da una parte abbiamo una forte disaffezione tra, diciamo, partiti e cittadini, e dall'altra è anche il primo banco di prova per tastare gli umori sul governo Monti. Sentiamo il reportage di Cristina Carpinelli. Disaffezione alla politica, la madre delle liste civiche? Oppure è l'ennesimo colpo gobbo di chi ha capito che non prenderebbe mai voti e allora si presenta col vestito nuovo e il candidato della porta accanto? Le interpretazioni sono molte. Resta il fatto che queste sono le elezioni con il più alto numero di liste civiche. Ad esempio, in Toscana, in 30 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali, ci sono 40 liste civiche. Ma procediamo per ordine. Il fenomeno delle liste civiche si impose nelle trascorse elezioni amministrative come fenomeno in crescita. Lo stesso Movimento 5 Stelle di Grillo ne è espressione, in qualche modo. Alessio Berni è segretario della Federazione Civica. Cioè, il civismo non nasce oggi, ma come dire, è un'espressione ormai datata in Italia. Tanto è che alle elezioni amministrative del 2009... parlo per la realtà toscana che conosco molto bene, come dire, sono state ben centinaia di liste civiche che si sono presentate fra liste civiche civetta e reali. Noi abbiamo, come dire, anche grazie all'intervento dell'Università di Firenze che ha seguito con attenzione questo pullulare di liste civiche, abbiamo cercato di fare un report su quello che era il civismo reale, cioè civismo rappresentato da espressioni trasversali e non da soggetti che si appellano al civismo per mascherarsi dietro ai partiti, e dietro a questo report abbiamo fondato una federazione civica in Toscana che raccoglie oggi 52 liste civiche, pure ci permettiamo di dire, cioè che sono distanti dai partiti o quantomeno che antepongono il buonsenso locale e riescono a raccogliere i consensi a destra e a sinistra, tanto per essere chiari. Queste 52 liste civiche, tanto per dare due numeri, hanno raccolto nel 2009 qualcosa come oltre 80.000 consensi elettorali, che significherebbe essere indubbiamente la terza forza politica sullo scenario politico regionale. Se questo lo moltiplichiamo a livello nazionale è ovvio che nasce veramente qualcosa di estremamente interessante, e è la dimostrazione che i cittadini hanno seriamente e concretamente voglia di cambiare e non sono poi così remissivi come si vuol far capire qualche volta. Questi liberi cittadini credono dunque nel cosiddetto civismo e sono parecchio critici rispetto alle liste civiche civetta, cioè quelle che di fatto sostengono il candidato di un partito importante. Ancora Berni. Quello che sta succedendo di giorno in giorno conferma che il sistema partitico è malato concretamente, e quindi ha bisogno in qualche modo, per cercare di dare una risposta, di reinventarsi un po' una casacca, un'immagine nuova. Ecco che è abbastanza semplicistico pensare di come dire, mettersi una casacca trasversale, civica in questo caso, e ripresentarsi di fronte all'elettorato. Noi che cosa abbiamo fatto per cercare di smascherare questo trucco, mi permetto di dire? Già da qualche mese abbiamo avviato un percorso di certificazione civica, cioè diciamo, laddove rispondi a determinati requisiti elementari, se vogliamo, cioè il fatto stesso di non essere un tesserato di partito che, come dire, coordinano una lista, è già un elemento che dà una certa sicurezza ai cittadini di non votare nuovamente qualcuno che da anni gravita nei partiti. Ecco, abbiamo avviato questo percorso di certificazione civica che vuole appunto attestare la validità di queste liste che si presentano alle prossime amministrative. Eppure, nonostante il monitoraggio, i grandi partiti in crisi non hanno smesso di riciclarsi, ripulirsi e presentarsi con una veste nuova davanti ai cittadini. Una tesi che però viene smentita dall'onorevole Gasparri del PDL. Le liste civiche ci sono sempre state. Ci sono sempre state liste senza simboli di partito che alle elezioni amministrative hanno sostenuto candidati alla presidenza delle regioni, alle province o i sindaci. In questa fase probabilmente ce n'è ancora un numero maggiore, le ritengo un fatto positivo quando sono uno strumento di partecipazione dei cittadini, non quando servono casomai a spaccare partiti esistenti. La caratteristica della lista civica deve essere una, deve rappresentare una forza aggiuntiva di persone che, non facendo parte dei partiti che presentano le loro liste, si aggiungano. Poi ci sono stati casi diversi in cui in alcuni comuni nel passato casomai più forze politiche si univano in un'unica lista, allora si usava un simbolo che non apparteneva a nessuno nello specifico modo, ma la classica condizione della lista civica è quella di aggregare cittadini che non sono iscritti a partiti, che si schierano con la loro lista a sostegno di un sindaco. Di queste ce ne sono sempre state, ce ne sono anche in queste elezioni, credo in tutti i comuni, e sono un fatto tradizionale e positivo. Le liste civiche non sono uno stratagemma, i partiti si devono presentare con il loro volto e alle elezioni politiche non si possono nascondere dietro liste civiche. Alle elezioni locali aggiungono accanto alle liste col proprio simbolo delle ulteriori liste fatte da cittadini non iscritti ai partiti. La crisi di credibilità della politica si supera con la serietà dei comportamenti dei politici. Io cerco di fare la mia parte comportandomi con onestà e coerenza. Se tutti i politici la facessero, la politica vivrebbe stagioni migliori. Il problema delle liste civiche civetta, seppur sentito, non spaventa i grillini, gli appartenenti cioè al Movimento 5 Stelle, nato sotto la guida di Beppe Grillo. I grillini sono ormai conosciuti sul territorio, si muovono lenti, ma sembrano riscuotere sempre più apprezzamenti tra la gente. L'impegno è stato totalizzante, ci ha raccontato Beppe Grillo. Faccio politica vera, bella, entusiasmante, l'ho fatta col camper, andavo in giro a fare le piazze, a presentare questi ragazzi. Io sto rinascendo, ma come umanamente, sono entusiasta e poi io apro solo una strada, poi vedremo, ma è una strada straordinaria, guardi, straordinaria. Io vedo l'entusiasmo dei ragazzi, che appena gli dai una possibilità, abbiamo delle persone meravigliose. Quindi io sono ottimista, è lunga perché ci mettiamo un po' più di tempo. Noi facciamo proposte, vede l'Aga una proposta, c'è il riciclo dei rifiuti con riciclare il 99%, è una proposta, vede l'Aga non la conosce nessuno. Noi sono 5 anni che cerchiamo di far conoscere questa, che ha fatto risparmiare al comune di Treviso 80.000 euro sulla spazzatura, cioè, senza bruciare, senza mettere in discarica. Questo è un movimento di proposte. Hanno detto che noi andiamo a fanculo, siamo gli antipolitica, ma noi abbiamo fatto le proposte, quei videi c'erano delle proposte di cui parlano adesso questi insignificanti personaggi. Insomma, noi abbiamo fatto delle proposte e ci hanno detto che eravamo l'antipolitica. Cioè, la cosa che non si riesce e non riesco a far capire è che siete di fronte a qualcosa di nuovo. Cioè, non ci sono partiti cattivi, buoni e cattivi, non ci sono più i partiti, è una struttura vecchia. Cioè, lo Stato va riformato, va ripensato con i cittadini, perché i cittadini sono lo Stato. Avete sentito il reportage di Cristina Carpinelli sulle elezioni amministrative che si svolgono il 6 e 7 maggio nel nostro paese. Torniamo domani mattina alle 6.30 su Radio 24. Vi ricordo che questa, e come tutte le puntate di Italia in Controluce, sono scaricabili in podcast. Abbiamo anche la pagina e il gruppo di Facebook, poi siamo naturalmente anche su Twitter, dove potete seguirci tutti i giorni con i temi delle puntate, anche se avete naturalmente idee da proporre, anche la nostra mail controluce@radio24.it.